Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, la casa, il tema che sicuramente i nostri ascoltatori preferiscono da sempre, e però insomma è un tema che in questo momento vive una condizione di grande difficoltà. Quello che emerge dal rapporto immobiliare 2013 diffuso un paio di giorni fa relativo ai dati dello scorso anno, diffuso appunto martedì scorso da ABI e Agenzia delle Entrate, è il peggior risultato dal 1985. Lo scorso anno è stato registrato un calo di oltre 150.000 compravendite, meno 27% rispetto all'anno precedente. Se si guarda solo agli acquisti finanziati dai mutui, il quadro è ancora peggiore, se possibile, perché il calo arriva al 38,6%. È chiaro quindi che il problema centrale continua ad essere quello della concessione dei finanziamenti. Da un lato le famiglie attendono tempi migliori e dall'altro le banche sono sempre più severe e più rigide. Ci sono però e ci sono tante indagini che stanno monitorando questo fenomeno, delle soluzioni alternative che permettono di arrivare all'acquisto dell'abitazione dei propri sogni. C'è il rent to buy, so che sono tutti termini inglesi che indispettiscono gli ascoltatori, ma adesso li tradurremo. Il buy to rent, al contrario, è l'help to buy, e cioè, allora, il rent to buy è l'affitto per arrivare a comprare una casa. Il buy to rent è comprare per affittare, o help to buy, l'aiuto a comprare. Che cos'è tutto questo mondo di cui parliamo oggi? Sono termini inglesi che in realtà definiscono delle formule che hanno origine anche italiana e che stamattina appunto vi spiegheremo. Intanto quale quota di mercato occupano, perché per la verità occupano ancora una nicchia, almeno secondo gli operatori, e però stanno prendendo sempre più piede, proprio perché naturalmente possono arrivare a concludere una trattativa, una compravendita appunto è complicata. Ci sono però anche sul mercato anche tante iniziative di carattere tra virgolette commerciale, con cui si stanno attrezzando le agenzie immobiliari per favorire la conclusione delle trattative di compravendita, e offrono ai potenziali acquirenti e venditori di immobili servizi completi: il muratore per i lavori di ristrutturazione, la voltura delle bollette, insomma tante iniziative sulle quali oggi noi vogliamo fare il punto, spiegando anche in particolar modo il funzionamento delle nuove modalità di acquisto dei beni immobiliari. 800 24 00 24, il numero verde che come sempre vi dà l'opportunità di interagire in diretta con noi, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, oppure scriveteci a salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, mi sono morsa la lingua, e su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno a Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it. Buongiorno, benvenuto. Bentrovati. Buongiorno anche a Valerio Angeletti, presidente nazionale della FIA, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. Presidente, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. E buongiorno al notaio, collaboratore del Sole 24 Ore, Angelo Busani. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Prima di parlare di tutto questo però volevo fare subito un commento col presidente Angeletti sulla decisione presa questa mattina, attesa dal Consiglio dei Ministri, di rinviare il pagamento dell'IMU al 16 settembre in attesa di rimodulare tutta la tassazione sulla casa. Angeletti, può dare questo provvedimento a suo avviso un sussulto d'orgoglio al mercato immobiliare che annaspa così tanto in questo momento? Diciamo che soprattutto può dare un sussulto di speranza. Perché? Perché il rinvio chiaramente non è una soluzione definitiva, ma lascia sperare tutti i proprietari di immobili e tutti gli operatori che si voglia effettivamente mettere mano a un settore, quello della casa e degli immobili in genere, sia quindi residenziali che industriali, che commerciali, che sportivi o di per qualsiasi destinazione essi siano stati costruiti, quindi mettere mano a un sistema fiscale realmente efficace e non penalizzante soltanto perché si possiede un immobile, perché dietro la scelta all'acquisto di un immobile ci sono tante motivazioni personali e anche tante carenze pubbliche e sociali. Quindi speriamo che sia l'inizio di un nuovo passaggio, un nuovo esame del fisco sulla casa. Benissimo, noi su tutti questi temi naturalmente torneremo con le nostre trasmissioni prossimamente a Salvadanaio, perché anche se c'è questo rinvio del 16 settembre c'è però appunto tutto un ambito che ancora l'IMU deve pagarla. Vi ricordo che peraltro su questo tema c'è uno speciale del Sole 24 Ore, SOS IMU, 3 giorni di approfondimenti domani, domenica e lunedì sulle novità, le scadenze, i costi per famiglie e imprese. E poi vi ricordo anche che naturalmente domani è in edicola con il Sole 24 Ore Plus 24, dove si parla dei mercati emergenti, la grande speranza dei risparmiatori delusi d'Europa. Per cui tanti temi interessanti sul Sole di questi giorni. Noi però adesso andiamo al nostro approfondimento che riguarda la casa, l'andamento del mercato immobiliare. Il peggior risultato dal 1985 è quanto emerge dal rapporto immobiliare 2013 relativo ai dati del 2012, diffuso martedì da ABI e Agenzia delle Entrate. L'anno scorso, rispetto al precedente, è stato registrato un calo di oltre 150.000 compravendite. 448.364 il numero di transazioni del 2012. Meno 27% rispetto al 2011. La zona più penalizzata è il Nord-Est, che incassa una diminuzione dei volumi del 28,3%. Nel complesso, il calo è un po' meno brusco nei centri più grandi, meno 24,8%, mentre risulta più marcato nei comuni non capoluogo, che arrivano a superare il meno 26%. Diminuisce inoltre il valore di scambio complessivo, stimato in circa 75,4 miliardi di euro, quasi 27 in meno rispetto al 2011. Lo scenario si fa ancora più cupo se si guardano solo gli acquisti finanziati dai mutui. Il calo delle transazioni arriva al meno 38,6%. È chiaro quindi che il problema centrale continua ad essere quello della concessione dei finanziamenti. Da un lato le famiglie attendono tempi migliori e dall'altro le banche sono più severe. La combinazione di queste due tendenze tiene in scacco il mercato, che difficilmente potrà vedere la fine della sua crisi se non si sbloccherà, con una sostanziale ripresa, il dato relativo al credito. Sono in molti però a chiedersi e a iniziare a individuare soluzioni alternative al classico acquisto e alla richiesta di un mutuo, che permettono con modalità diverse di arrivare a diventare proprietari di immobili. Sono davvero percorribili queste strade? Allora, tanto per cominciare, motiviamo la scelta della nostra colonna sonora di oggi, che ha accompagnato la nostra scheda. È una canzone del 1985, Carlo Giordano, che è vecchio quanto me la ricorda, David Bowie, perché insomma è un anno che ci ricorda quando c'è stato il peggior risultato sull'andamento del mercato immobiliare pari a quello odierno. This is not America, insomma non siamo come gli americani, però viviamo una condizione del mercato del mattone molto difficile, non quanto quella che gli Stati Uniti hanno vissuto a causa della crisi dei mutui subprime, ma insomma, per le abitudini degli italiani è una crisi molto seria. Carlo Giordano, immobiliare.it, poi parleremo dei nuovi servizi che appunto le società che offrono assistenza immobiliare appunto si stanno inventando per accontentare al meglio la clientela, però erano quelli una volta i tempi in cui si andava in agenzia, si cercava di negoziare un po' sul prezzo, poi la trattativa si chiudeva. Adesso invece anche voi testimoniate il fatto che invece prima di arrivare alla conclusione di una compravendita devono passare un bel po' di mesi. Verissimo. Quello che è da sottolineare è nel crollo delle compravendite dell'ultimo anno, o meglio degli ultimi 4 anni, non è parallelamente una riduzione del desiderio casa. Se misuriamo le ricerche delle persone, anzi, strutturalmente crescono proprio perché è andato più difficile lo comprare. Lo dice anche questo rapporto ABI, Agenzia delle Entrate. In realtà ci sarebbe anche la potenzialità finanziaria per fare l'acquisto, però ecco, ci sono altri momenti in cui poi la trattativa si arena. Esatto. E io aggiungo sempre che oltre alla difficoltà poi dell'erogazione del mutuo e quindi di avere poi fisicamente la possibilità di comprare l'immobile, viene a mancare negli ultimi anni anche una visione di fiducia nel futuro. E tante compravendite del passato nascevano da miglioramento della propria casa, no? La prendo più grande, la prendo più bella. Ovviamente per fare questo passo richiede la serenità che nei prossimi anni andrà tutto bene e che sia una spesa che posso sostenere. E che la fiscalità rimanga magari costante? Vabbè, ammetto che sicuramente nell'ultimo anno ha reso molto più difficile vivere serenamente come proprietari, e mentre una volta mi sentivo privilegiato avere la casa anziché pagare un affitto, adesso potrei sentirmi in alcune situazioni più colpito di uno che è in locazione, perché ovviamente una fiscalità crescente non prevista generalmente colpisce direttamente il budget. Certo. Allora, visto che le compravendite in termini, come dire, tradizionali stanno segnando il passo, ecco che il mercato riscopre altre modalità per arrivare ad acquistare la casa dei nostri sogni. Lunedì scorso il Sole 24 Ore ha pubblicato questa guida speciale sulle alternative appunto per comprare casa ed è stato particolarmente attento il focus su questo strumento che è quello del rent to buy, l'affitto appunto per comprare. Nella sostanza, per dirla in termini italiani, notaio Busani, ancora buongiorno, si tratta di un contratto di locazione combinato con un contratto di opzione per l'acquisto della casa. Esatto. E chi firma appunto tutta questa contrattualistica? Un venditore, un acquirente o c'è qualche altro intermediario? Un venditore, un acquirente, accompagnati dal loro agente immobiliare. Nel nostro canone e concetto tradizionale di compravendita c'è la regola commerciale, non giuridica, che il giorno della firma del contratto definitivo ci sono i soldi sul tavolo, ti do le chiavi, mi dai i soldi. Ecco, se facciamo venire un po' meno questa regola, che è una regola, diciamo, commerciale, non è una regola giuridica, è una regola magari di sicurezza delle contrattazioni, ma non è giuridica, non è un imperativo categorico quello di pagare il giorno che si firma, il giorno che si ha la consegna delle chiavi, ecco che la carenza di liquidità da parte degli acquirenti, la non disponibilità delle banche a finanziare gli acquirenti può essere in alcune situazioni, probabilmente non tantissime, rimediate da un accordo fiduciario tra un venditore e un acquirente che accettano di autofinanziarsi, e cioè di fare quello che la banca non fa più. Il venditore accetta di prenderli con il tempo, l'acquirente si impegna a pagarli con il tempo e quindi di fatto da banca fa il venditore nella formula del rent to buy, cioè ti affitto e poi alla fine compravendiamo. Ebbene, il venditore li prende a rate, il compratore paga dei canoni di locazione. Se va tutto bene, alla fine i canoni vengono imputati a prezzo e quando c'è l'ultimo canone c'è il trasferimento della proprietà. Quanto può durare questo periodo, diciamo, di affitto in attesa che si definisca la compravendita? Che si finalizzi? Non esiste un limite. Se non in basso. Ma viene fissato, diciamo, magari nel contratto di opzione iniziale? Certo, si fa un bel contratto di locazione. Che ha i vantaggi e gli svantaggi di un contratto di locazione, perché come tutti sanno nel nostro sistema giuridico le locazioni abitative sono sotto un regime vincolistico, quindi non hanno un termine finale, ma hanno un termine minimo, che questo va rispettato, ma ovviamente non c'è il problema di non rispettare questo termine minimo, perché evidentemente si va molto più in là del termine minimo. È chiaro che bisogna abbinare un contratto di locazione con un contratto di compravendita, è una metodologia contrattuale particolarmente complicata, particolarmente delicata, perché questi due signori, l'acquirente e il venditore, che normalmente si incontravano per un'ora e poi non si vedevano mai più in vita loro, invece devono iniziare un rapporto lungo nel tempo, che deve essere un rapporto… Che non è detto che sia del tutto idilliaco, peraltro. Idilliaco, ma deve essere un rapporto, è questo il vero problema, ipergarantito da entrambe le parti, cioè… Il venditore deve avere la garanzia di prenderli, il venditore deve avere la garanzia che se ci sono spese straordinarie da fare oppure che vengano fatte, che l'appartamento non venga distrutto, che se l'acquirente non paga se ne deve andare alla svelta, senza rimanere nell'appartamento. Insomma, vanno disciplinati tutti i singoli aspetti, tutti i termini appunto di questa relazione. Una compravendita col prezzo saldato seduta stante, ovviamente questi problemi non ci sono. Certo. È chiaro che vanno gestiti tutti i problemi che genera questo dilazionamento nel tempo del prezzo. Diciamo che ecco il vantaggio più evidente che io posso vedere in questa formula è che magari chi in questo momento non si può permettere l'acquisto di una casa perché la banca nicchia, allora in questo caso si può trovare questo accordo e rinviare la richiesta del credito appunto a tempi migliori, e chiaramente la speranza, l'auspicio che questa relazione tra compratore e venditore vada nel miglior modo possibile. Però so che gli agenti immobiliari questa formula non la vedono tanto di buon occhio. Valerio Angeletti, presidente della FIMA, torno a lei, perché comunque è anche piuttosto articolata questa formula giuridica, forse non è tanto facile neanche da proporre, no? Sì, chiaramente l'aspetto che il notaio ha evidenziato, cioè l'incertezza che il rapporto negli anni non possa rimanere idilliaco, è uno degli elementi sicuramente più forti. E anche da dire che soltanto nella maggior parte dei casi pochi soggetti possono essere interessati ad alienare cespiti di questo in questo modo. Nella maggior parte dei casi trattiamo di costruttori che hanno un pacchetto immobiliare abbastanza consistente e che hanno necessità di essere supportati magari per il mutuo che corre, e quindi possono pensare di sviluppare un ragionamento almeno su parte, certo, dei loro. Quindi diciamo per il immobili. Privato potrebbe essere più complicato, meglio un po' per un il costruttore privato, che ha una disponibilità privato di immobili. Si dovrebbe, per trovare una soluzione di questo tipo, dovrebbe essere limitata al ti do in affitto per pochi anni casa, però dopo hai l'impegno a saldarmi tutto in certo. 2 o 3 anni. Salvo poi andar via qualora non certo, lo hai o magari fare ecco, questa operazione con una persona che si conosce molto bene. Ottenere un mutuo è difficile, per tanti quasi impossibile. Per una nuova generazione di italiani, l'unica scelta è quella di continuare a vivere in affitto. Potrebbero esserci però alcune soluzioni alternative da prendere in considerazione. Una è quella del cosiddetto affitto con riscatto, il rent to buy. L'inquilino o potenziale acquirente stipula con il venditore dell'abitazione 2 accordi, un normale contratto di locazione e un contratto di opzione che prevede la possibilità di acquistare la casa in cui ha vissuto, a una scadenza e a un prezzo concordati. C'è anche il buy to rent, una vendita immediata con prezzo dilazionato e la garanzia per il venditore di tornare proprietario in caso di inadempienza da parte del compratore. Nel help to buy, invece, si stipula un contratto preliminare preordinato al versamento di rate da parte dell'acquirente al venditore, chiedendo poi alla banca una pratica di finanziamento per il residuo del prezzo. E di tutte queste formule, non è terminata la scheda. E che non a caso la possiamo sfumare, non importa, vado in onda Gianmarco, non importa, e c'era stata una pausa che mi aveva confuso. Detto questo, quello che ci interessa capire questa mattina è se queste formule sono, come dire, destinate anche in qualche maniera a movimentare il mercato immobiliare italiano. C'è chi ci crede, chi no. Carlo Giordano, l'osservatorio di immobiliare.it, cosa osserva? Beh, sicuramente c'è tanta domanda, quindi tante persone il nome di affitto con riscatto per quindi diventare proprietari in un modo dilazionato piace e quindi viene fatta una ricerca specifica sul sito. Nel tempo da una formula inesistente è comparsa anche un'offerta e in questo momento sul sito, su immobiliare.it, ci sono quasi 7.500 offerte di vendita o affitto, di affitto con riscatto per sul sito. E segnalo però 2 cose. Uno, chi lo propone strutturalmente prende dei rischi forti oppure deve vincolare molto l'accordo, perché pensate a un costruttore che anziché vendere un immobile nuovo lo fa con affitto con riscatto, se poi non andasse a buon fine si ritrova un mobile usato, quindi deprezzato rispetto al valore originario. E ovviamente chi offre questa formula deve avere una liquidità finanziaria molto forte. Quasi perché, come se pagasse il mutuo comunque. E certo, lui si sostituisce la banca, certo. Quindi veramente ci rivolgiamo a un gruppo di persone che se lo possono permettere. L'altra cosa che richiamo è, piace molto nella semplificazione della formula, quindi c'è molta richiesta, però bisogna anche rendersi conto che non essendo un istituto reale, quindi la somma di un affitto e una compravendita non è ottimizzata da un punto di fiscalità, quindi sostanzialmente si paga più fisco rispetto a non fare un'unica formula e questo è un tema. E l'altro che è una formula più complessa e quindi richiede una consulenza più specifica, non è semplice come comprare un immobile. Certo, allora sentiamo un paio di ascoltatori, poi torno al nostro esperto, al nostro notaio, ad Angelo Busani, perché c'è chi come dire ha percepito anche l'automatismo. Se io stipulo un accordo per vendere una casa di questo, secondo questa modalità, appunto ammettendo che questo immobile valga 100.000 euro e pattuisco di venderlo al termine di questo contratto a questa cifra, c'è chi praticamente immagina che tutti i canoni di locazione assicurazione che verranno pagati nel frattempo verranno appunto a diminuire il prezzo complessivo della compravendita. In realtà la diminuzione del prezzo finale non è esattamente che funzioni secondo questa come dire, modalità tecnica, e adesso ne parleremo. Intanto andiamo a Fedora da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, Fedora. Io volevo porre una domanda da un punto di vista del futuro compratore. Sì. Cioè, nel caso, perché qui in zona per esempio vi è molto rent to buy, ma nessun buy to rent. Nel caso che il compratore compra dal costruttore e ha le stesse garanzie di fideiussione del contratto preliminare della compravendita normale, per esempio nell'ipotesi di fallimento del costruttore? Sì. E in questo caso o negli altri casi la tassazione come viene ripartita? Cioè chi va in affitto con riscatto paga già la tassazione come se fosse proprietario o no? Grazie, o Fedora. Un secondo momento. Grazie mille. Sì. Grazie a lei. Notaio Busani, che tra l'altro tra qualche minuto ci deve lasciare, le lascio il microfono appunto per spiegare a tutti i nostri ascoltatori tutti questi aspetti che ci hanno sollecitato e sollevato. Allora, c'è un aspetto in generale che è già stato sottolineato, che nonostante noi facciamo ricorso con queste formule, anche chiamate in inglese, per questo vezzo di chiamare in straniero tutto ciò che è strano, con queste formule noi stiamo usando gli istituti più tradizionali del nostro ordinamento, cioè da compravendita e la locazione, quindi non stiamo facendo nulla di nuovo, stiamo solo combinando due contratti che normalmente non sono combinati. Per combinarli, io vi assicuro, faccio questo mestiere da oltre 20 anni, è molto difficile per me, e immagino per chi non ha la frequenza contrattuale che può avere una persona come me, un professionista come me. Quindi stiamo toccando degli aspetti che sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista prettamente giuridico sono oltremodo spinosi, oltremodo complicati. Se è complicato fare una compravendita normale col prezzo pagato seduta stante alla firma, queste formule esasperano per tantissime volte, per numero di volte infinito, la complicazione. Mm-hmm. Quali sono… Generalizzo rispetto alla domanda che mi è stata fatta, perché poi bisognerebbe specificare se si parlava di rent to buy o di buy to rent. Comunque, fatto sta, c'è un problema ovviamente di tassazione, e cioè prima c'è un contratto di locazione, poi c'è un contratto di compravendita, stiamo allungando nel tempo i contratti, stiamo facendo una pluralità di contratti, e quindi in un primo tempo c'è ovviamente un contratto di locazione che è soggetto alla sua osservazione fiscale, in un secondo tempo c'è un contratto di compravendita che è soggetto alla sua osservazione fiscale. Il buy to rent è leggermente diverso, perché lì c'è una vendita immediata, e quindi si pagano le tasse di compravendita, quindi l'acquirente diventa proprietario immediato, salvo che il venditore possa riottenere la restituzione dell'immobile ove l'acquirente non paghi. Qua ci sono due formule: o il riscatto oppure la vendita sottoposta a condizione risolutiva del mancato pagamento. Quanto alle garanzie per l'acquirente, cioè se il venditore fallisce, se l'acquirente fallisce, se il venditore nel frattempo di questo rapporto spalmato nel tempo subisce delle ipoteche, dei sequestri, pignoramenti, che succede? È l'abilità dei professionisti che accettano questi incarichi, è proprio questa, cioè di garantire le parti. Di ipotizzare queste possibilità e quindi tutelare le parti contro queste eventualità. Sì, esatto, quindi dobbiamo porci il problema: se fallisce chi vende, che succede? Se fallisce chi compra, che succede? Mm-hmm. Se chi vende piglia nel frattempo di questa locazione delle ipoteche giudiziarie, dei sequestri, dei pignoramenti, che succede? Abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiare queste situazioni, abbiamo tutte le capacità per fronteggiare queste situazioni, il problema è che sono questioni assai complicate, diverse l'una dall'altra, che vanno singolarmente gestite. Il periodo di crisi ha delle conseguenze purtroppo negative, ma anche delle conseguenze talvolta positive, che scatena l'inventiva e fa trovare fuori soluzioni che normalmente non sono sul tavolo, ma che possono tornare sul tavolo una volta che i professionisti del settore si impegnino e le applichino. Certo, Busani, un'ultima domanda, poi la lascio anche perché devo andare di nuovo in pubblicità. Io stipulo con lei un contratto di locazione affinché fra 4 anni poi questo contratto diventi l'esercizio dell'opzione per l'acquisto della casa. Il prezzo finale individuato per questo immobile è, ammettendo, 150.000 euro. In questi 4 anni io però le verso 20.000 euro di canoni di locazione. Significa che alla fine pagherò quella casa 120.000 euro? No, ovviamente il prezzo è sempre quello, è quello pattuito. È chiaro che dal prezzo si scomputeranno i canoni versati, che quindi non saranno... Cioè proprio nell'esatto importo? Certo, beh, ma lì non c'è nessuna legge che ci impone di fare nulla, è una libera contrattazione, però nella normalità dei casi il tema è, invece di pagare un mero canone di locazione, sto pagando un prezzo a rate, vuol dire che quando avrò pagato l'ultima rata avrò pagato tutto il prezzo rateizzato nel tempo, ma non è che passando attraverso una locazione o una diminuzione del prezzo. È chiaro che ci possiamo mettere d'accordo anche così, ma la vedo abbastanza implausibile sotto il profilo della voglia del venditore di vendere a questa maniera. Certo, perché altrimenti le farebbe tutte così. Grazie Busani, buona giornata, ci risentiamo presto, magari su queste formule ci ritorneremo perché vedo che ci stanno scrivendo moltissimi ascoltatori. Adesso ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo ad un altro tema, tutto quello che si stanno inventando poi gli agenti immobiliari per creare un po' di movimento sul mercato. Ultima parte di Salva Danaio, andiamo velocemente verso la conclusione per parlare del mercato immobiliare e delle iniziative che ci sono in circolazione e studiate naturalmente da tutti gli addetti ai lavori per cercare di finalizzare al meglio le compravendite che sono sempre più lunghe, trattative estenuanti tra compratori e venditori. Allora Valerio Angeletti, intanto, a parte il fatto che abbiamo capito che è molto complicato stipulare un contratto di rent to buy, anche se ci diceva l'ascoltatrice Fedora da Roma appunto che in realtà abita in una zona dove a quanto pare stanno praticando in molti questo istituto, e invece appunto le altre modalità che l'ambito immobiliare sta studiando per cercare di favorire al meglio l'incontro tra domanda e offerta in questo momento difficile, insomma, quali sono? Ma io dividerei questo argomento in due, andando a fare delle sintesi: uno, dei maggiori servizi offerti; due, della maggiore disponibilità che si cerca di creare intorno al tavolo della trattativa. Per toccare il primo tema, è chiaro che in un momento di difficoltà gli agenti immobiliari cercano di mettere l'acquirente, che è sicuramente dubbioso per tutti i problemi sul futuro, per le difficoltà di trovare credito, cerca di metterlo a più agio possibile. E quindi offrendogli tutta una serie di esami, di analisi e di soluzioni per quelle che sono le attività collaterali alla compravendita, per far sì che approcci a questa trattativa in maniera serena. Quindi parlo di fornirgli tutta la documentazione catastale, misure ipotecarie in fase di trattativa, certificazioni energetiche, possibilità di soluzioni di riprogettazione dell'immobile e di preventivi per fare i lavori. Quindi diciamo tutto quello che è il corollario che alleggerisce il problema acquisto immobiliare. Ecco, Carlo, sì, no, mi scusi. Assolutamente. L'altro elemento è proprio sfruttando questa ricerca per cui si è arrivato a rivitalizzare il rent to buy o affitti con riscatto, mettere le parti intorno a un tavolo con una predisposizione diversa alla trattativa. Prima il venditore poneva il suo immobile, si individuava il prezzo, entro 60, 90, 120 giorni voleva avere i soldi, indipendentemente da quello che era il processo che l'acquirente doveva fare. Adesso si deve cercare di rendere partecipi entrambi alle difficoltà dell'acquirente, per cui maggiore tempo per portare in vendita l'immobile di proprietà dell'acquirente che vorrebbe teoricamente permutare, maggiore tempo per trovare delle soluzioni finanziarie, dato che la banca sotto casa non è più l'unico elemento, l'unica soluzione per ricevere un mutuo, maggiore disponibilità nel costruire dei contratti che possono essere soggetti ha un'elasticità di tempo, ma anche eventualmente ha delle sospensioni. Quindi insomma, il professionista dell'immobile deve diventare veramente l'assistenza di tutto il procedimento a 360 gradi, forse anche di più, molto più che in passato. Carlo Giordano, immobiliare.it, devo andare in chiusura fra tre minuti, ci offre uno spaccato di tutto quello che si trova anche sul mercato attraverso le loro indagini appunto periodiche su questo mondo. Abbiamo addirittura trovato a Bergamo una promozione nel mondo dei costruttori: il garage te lo riempio io, compra l'appartamento più il box e ti regalo la Panda. Esatto, devo dire, oltre a quello che ha sintetizzato Angeletti, ci sono aspetti che sono stati mutuati dal mondo del commercio, quasi dei supermercati, quindi la spinta promozionale è diventata molto più presente nel mondo immobiliare che una volta ne era assolutamente al di fuori. E un altro esempio sui costruttori è: ti pago io l'IMU. Poi certo, la notizia di oggi, chi ha preso l'immobile con questa garanzia oggi si sente un po' tradito o perde un'opportunità che aveva. E il lato agente immobiliare abbiamo visto sempre in una dinamica più di visibilità dell'offerta e la dichiarazione provvigioni zero per chi compra, quindi l'addebito del costo dell'intermediazione viene caricato tutto al venditore. Che in un momento in cui è difficile vendere è corretto, è il compratore che vale come risorsa, quindi è giusto non chiedere a lui altre risorse. E altra cosa che abbiamo osservato è l'indicazione dei ribassi, quindi sono un proprietario e avevo una mia visione del prezzo che volevo realizzare al mio immobile, purtroppo il mercato, il crollo delle compravendite non me l'ha consentito, sono pronto, perché ne ho necessità, ne ho desiderio, ho una mia visione diversa, di ridurre il prezzo, e viene trasformato proprio come taglio prezzo dichiarato, quindi si fa vedere quanto era l'offerta precedente, si fa vedere l'offerta attuale, ovviamente per dimostrarne l'opportunità. Ci sono però tante altre cose interessanti, come per esempio agenti immobiliari che propongono il full service, un po' ce lo raccontava prima anche Angeletti, andando oltre la sola compravendita, le chiavi per l'idraulico, per le emergenze. Sì, questo lo trovo molto bello, perché la figura agente immobiliare si sta evolvendo rapidamente da semplice... il vecchio sensale, no? Io partecipavo all'intermediazione, si completava lì, non avevo più rapporti con le parti nel tempo. Oggi si vede più un ruolo di servizio continuativo nel tempo. Era tipo le persone hanno sempre più distanza dalla loro abitazione, quindi lavorano, e avere qualcuno che ti fa i servizi in casa, che ti accoglie, che fa i servizi in casa, ovviamente può essere un'utilità. Allora, io tra l'altro volevo commentare, adesso stiamo quasi chiudendo, racconto sempre della mia amica che fa l'agente immobiliare, che queste cose le fa da anni, quindi io devo dire che qualcuno si era già svegliato da tempo, ancora prima che il mercato fosse in crisi, qualcun altro invece ha fatto un po' il barone per troppo lungo tempo, per cui adesso la situazione forse si va calmierando e regolarizzando, normalizzando. Io vi ringrazio per essere stati con noi, non riesco a sentire Stefano da Milano che voleva dirci che deve vendere casa, gli chiedono per la sua di abbassare il prezzo, lui sta cercando e i prezzi sono sempre alti. Stefano, si vede che forse la sua vale un po' di meno e si sta invece guardando intorno su case che non possono avere un prezzo più basso perché quello valgono. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì, buon weekend con i nostri programmi, a presto. Salva Danaio.